Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Quattro mattino. Sono le 8, 15 minuti e 40 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 13 ottobre, questa è la terza parte di 24 mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. A partire dalle 8.35 avremo ospite il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, tra i sostenitori, da quel che abbiamo letto, dell'ipotesi di far tornare i ragazzi delle superiori a fare lezioni solamente online. Tutto questo per svuotare un po' i mezzi pubblici, evitare l'intasamento nei mezzi pubblici e quindi il diffondersi del contagio all'interno dei mezzi pubblici, e più in generale parleremo ovviamente della gestione della pandemia. Se vorrete intervenire c'è l'800 24 0024 su tutto quello che volete, su questo, sulla questione delle feste private naturalmente, ma anche su Roma, sulle amministrative. Tra poco ci torniamo con il nostro Paolo Mieli. Buongiorno Paolo, eccoci. Eccomi, qui, buongiorno. Allora tra poco parliamo... Interessante, Toti. Sì. Direi anche di sì. Anche perché vedo che sui giornali, Repubblica soprattutto, c'è una levata di scudi contro questa proposta, c'è un fondo di Dario Crestodina contro quest'idea di rimettere a casa gli studenti, sia pure gli studenti più adulti, quelli che stanno al secondo, terzo liceo classico, quarto o quinta del liceo scientifico, i 17-18 anni, cioè loro stanno tutto il giorno a smanettare, a lavorare di computer, a guardare, sono abilissimi, non è come quelli delle elementari, e quindi dovendosi procedere, anche perché ci sono alcune regioni messe malino. Sì, decisamente. Adesso ci arriviamo. E là però il tema, Paolo, di fondo è: non è che si poteva investire piuttosto rapidamente nel trasporto pubblico, nel potenziarlo magari utilizzando i mezzi delle aziende private che in questo momento sono sostanzialmente fermi, invece di pensare a richiudere i ragazzi in casa? Comunque tema di dibattito, è aperto sicuramente. Investire adesso, secondo me, dovevamo pensarci a maggio. Diciamoci la verità, quest'estate è stato fatto poco o nulla per prepararsi all'eventualità di adesso. E l'eventualità di adesso la dobbiamo guardare dall'Italia, e siamo in modo capovolto rispetto a come eravamo in primavera, nel senso che il paese è messo meglio rispetto agli altri europei. Però si è fatto pochino, cioè, e poi soprattutto psicologicamente ci si è liberati, come dire, va bene, è finita, possiamo andare a sgavazzare qua e là. Comunque la cosa che fa più polemizzare i giornali, come avrei visto oggi, è questa richiesta di denuncia di chi fa le feste in casa. Non sono solo proibite le feste in casa, ma si invitano i cittadini a farsi delatori. Tutti i giornali della destra dicono, come la Stasi, Speranza, come insomma, come il solito comunista, che vogliono controllare le case dai vicini, e tutti protestano. Ho letto un divertente articolo di Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere, che dice che protesta anche lui, dice che vergogna, sì, che brutto, dice, però fa un po' scritto, quella mamma di Ladispoli che era positiva e che ha organizzato ben due feste per il pupo, beh, quella forse l'avrei denunciata anch'io. Alla fine. Però l'anima del delatore è insita nell'italiano. Ti ricordi quando si indicavano i runner dai balconi? Tu stai correndo, ti denuncio la polizia. C'è un po' quest'anima del delatore. Ci sono molti articoli divertenti dicendo, speriamo che non si ricominci non solo con le proibizioni, ma con tutte quelle storie delle feste, dei canti dai balconi. Sì. La retorica tra l'altro dei primi giorni. Sì. Prego Paolo, sì, scusami. No, dicevo, la retorica di quei primi giorni non la vuole più rivedere nessuno, appunto la caccia ai runner, l'idea che eravamo tutte quelle interviste, siamo tutti un po' più felici, stiamo a casa, leggiamo di più, tutte belle, insomma. Però sì, senti, torniamo al virus. A me mi ha colpito una notizia che oggi sui giornali italiani quasi non c'è. Qingdao è nella provincia dello Shandong, è una città cinese dove ci sono 9 milioni di abitanti, hanno trovato 6 positivi leggeri e 6 asintomatici, cioè 12 in tutto. Bene, sai cosa fanno? Un test a 9 milioni di persone che viene realizzato in 5 giorni. Ecco, allora, siccome sempre si dice la Cina non ce la conta giusta, chissà quanti sono i malati, non sono veri, ecco cos'è la Cina e perché riesce a combattere. È come se avesse 100.000 crisanti alla propria guida. Io lo trovo interessante. Sì, sì, anche perché nei giorni scorsi, Paolo, se hai visto, anche sui social era iniziata a circolare qualche voce un po' complottista che diceva: avete visto, la Cina sta recuperando, sta tornando alla normalità, e allora quel virus l'hanno inventato loro, l'hanno diffuso apposta. Come fanno i cinesi? Come fanno? In questo modo, trovano 6 positivi e fanno alla test maniera... su 9 milioni di persone. In 5 giorni poi, dando i risultati, altro che le file ai drive-in. Milano ha trovato questa ricetta: basta foto sui navigli, cioè quelli vogliono continuare a festeggiare e dicono che danno la caccia a quelli che fanno le foto con i telefonini. Se è un'indiscrezione riportata nelle pagine di cronaca dei giornali, però anche questo mi ha incuriosito. Dai, lasciamo perdere il virus, non possiamo concentrarci solo sul virus, perché il mondo va avanti, c'è Calenda che quasi sicuro, come hai tu, hai annunciato che si candida a Roma, il PD è molto irritato da questa candidatura, però ha trovato l'appoggio di Sgarbi, che ha detto: io sono del centrodestra, però a Roma voglio candidarmi. Lui è già sindaco di Sutri, oltre che parlamentare di Forza Italia. E se mi candida a Roma mi alleo con Calenda, se mi vuole io sto con lui, quindi col centro-sinistra. Insomma, è bellissimo. Curiosa, caotica situazione, molto italiana, sempre passando di Stato, ma uno Stato molto vicino al Vaticano. Hai visto che il Papa ieri ha ricevuto Pell, il sì, cardinale australiano, è stato un anno in carcere per aver avuto o aver tollerato improprie relazioni sessuali tra i suoi sottoposti. Bene, questa ieri il Papa lo ha ricevuto, è stato liberato, dopo è assolto, e tutti i giornali festeggiano questa cosa, dicono che Pella ha ringraziato, però c'è qualcosa che mi ha colpito, l'ho letto sul Messaggero, che l'Osservatore Romano ha dato questa notizia in poche righe, che l'incontro è durato in realtà solo 30 minuti, credo che quello con Becciu l'altro giorno sia stato più lungo, ben più lunghi, sì, e che forse Pell non è convintissimo delle congratulazioni che il Papa gli ha fatto per essere stato liberato da quella cella. Sì, beh, Paolo, nel frattempo, come vedi, dimmi. No, dico, a Becciu forse aveva qualcosa in più da dire, di pesante forse il Papa, quindi sì, certo, anche Becciu. Tra l'altro il caso Becciu, oggi compare un nuovo personaggio, un certo Tommaso Stenico, psicoterapeuta, non so cosa bene cosa sia, amico di Becciu e della Marogna, la quale Marogna, non torno sul personaggio Marogna perché ne abbiamo già parlato varie volte, rimbalzata sul Telegraph, cioè rimbalza fuori dall'Italia, e Carboni in un'intervista a Libera, il faccendiere, Carboni, sì, faccendiere, dice che lui la conosce benissimo, è amico della Marogna, e lei... Strano personaggio questo Carboni, che ritorna continuamente in pista. Sì, molto strano. Domani Sì. No, dico Paolo, questo personaggio Tommaso Stenico, psicoterapeuta, che entra, guarda, questa storia vaticana si arricchisce ogni giorno di cose incredibili. Allora, ve lo leggo se posso, un attimo, lo leggo dalla Verità. Nel video Stenico finì nei guai, è un prelato, finito nei guai nel 2007 per un servizio realizzato con la telecamera nascosta dalla trasmissione TV Exit. Nel video Stenico, teologo e psicologo, rivolgeva a un giovane semisdraiato sul divano del suo ufficio apprezzamenti per come sei molto carino e quanto sei buono, e lo congedava così: qui finisce la nostra storia perché ti sento molto prevenuto, non facciamo niente perché vedo che hai tante preclusioni, se vuoi mi chiami tu o mi mandi un messaggio. E poi si giustificò dicendo: lo facevo per far emergere la lobby gay all'interno del Vaticano, che è una scusa francamente un po' poco credibile. Come quelli che a suo tempo si dicevano di essersi iscritti alla P2 per rivelarne i segreti, per denunciarlo. Passando all'estero, ti voglio dare due cose che mi hanno colpito. Uno, che ieri è cominciato il confronto fra quella giudice Amy Barrett e che Trump vuole portare alla Corte Suprema, cambierebbe il rapporto di forze in modo schiacciante a favore dei conservatori. Si è avventata contro di lei, ha polemizzato duramente contro di lei Kamala Harris, la vicepresidente. Praticamente lei sostiene, siccome Biden un po' spento, effettivamente lo chiamano sleepy, dormiente, Kamala Harris ha preso il peso dell'ultima fase di campagna presidenziale e ha detto che la Barrett, che si è presentata tra l'altro al Senato con 6 dei suoi 7 figli e il marito, mentre nei giorni precedenti però allora ti dicevo, la Harris la accusa di voler cambiare il sistema sanitario già cambiato da Trump in maniera dannosa per i poveri. Poi sullo sfondo c'è sempre la questione del virus, anche perché un senatore repubblicano positivo, Mike Lee, si è presentato al Senato senza mascherina, tranquillo e beato. Abbastanza imbarazzante, pare, abbastanza imbarazzante. Tenete d'occhio che la Russia sarà sottoposta a sanzioni dall'Europa, una cosa enorme, i giornali frastornati dal virus non l'hanno potuta registrare con la necessaria enfasi per il caso Navalny, perché il Cremlino non ha accettato un'inchiesta indipendente su questo caso e quindi l'Europa sta decidendo le sanzioni. E ti invito a guardare sempre l'atteggiamento che ha la Lega in Europa, perché la Lega al momento di votare la prima mozione ha espresso delle incertezze, dando una riprova a coloro che la sospettano di strani legami con la Russia di Putin. Vorrei... Poi ho visto due cose. Dimmi. Vai Paolo. No, dimmi tu. Guarda, a me incuriosiva questa storia dell'abbattimento della statua di Lincoln, visto che siamo stati negli Stati Uniti. Pazzesca. Perché dunque la statua di Lincoln, che come è noto è il presidente della guerra di secessione 1861-65, la guerra che ha costato tantissimo in vite umane, per portare alla liberazione dalla schiavitù, alla sconfitta degli Stati del Sud, è tutta storia che voi conoscete benissimo, inutile che la racconto. Ma allora perché la abbattono? Perché la oltraggiano? C'è una scritta 38 Dakota, che significa? È un riferimento minimo a una questione che io conosco abbastanza bene. Nel 1862 una compagnia militare fece la guerra al Piccolo Corvo, agli ordini del Presidente degli Stati Uniti. Il Piccolo Corvo è una tribù Sioux, fecero delle cose orrende questa compagnia, impiccarono 38 ribelli, insomma non fu uno scherzetto. Però mi domando, ma è mai possibile che la statua del liberatore dei neri negli Stati Uniti venga abbattuta perché un drappello del suo esercito fece una lotta contro il Piccolo Corvo? È una storia ai più conosciuti. Comunque vi ho dato un'informazione, ecco perché leggerete sempre più spesso questa scritta 38 Dakota negli Stati Uniti. 38 andiamo, sono gli impiccati. Sì. Andiamo a chiudere, grazie Paolo Mieli, ci risentiamo domani dopo il GR delle 8. Paolo, buona giornata. Grazie a te. Quattro mattino. Ed eccoci di nuovo. Oggi parliamo un po' della pandemia, delle misure prese dal governo e dalle ipotesi che sono allo studio, delle richieste delle regioni, tra cui quella da parte di alcune regioni di tornare alle lezioni da casa per gli studenti delle superiori. Se volete dire la vostra, se volete intervenire su questo e sugli altri argomenti, naturalmente, l'800 24 00 24 è qua, così come il 349 238 6666 per i vostri sms, messaggi su WhatsApp e WhatsApp audio. Giovanni Toti, presidente della Liguria, buongiorno, bentornato ai nostri buongiorno microfoni. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Lei tra quelli che sostiene che i ragazzi debbano far lezione da casa, se ho capito bene. No, non è così. Ieri nel pacchetto delle valutazioni che le regioni facevano quando il governo si è sottoposto un testo di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che l'ha preso in queste ore, alcuni dei governatori hanno sottolineato il fatto che sui mezzi pubblici, se dobbiamo ridurre le persone perché è tornato a crescere il Covid, occorre diminuire le persone dal momento che non c'è stato un piano d'aumento organico del trasporto pubblico locale e né al momento è prevedibile qualche cosa di simile visto che non ci sono stanziamenti e programmi specifici del governo. Quindi qualcuno ha detto facciamo restare a casa i ragazzi più grandi, quelli che non necessitano ovviamente di un genitore che li controlli e stia con lui per evitare l'affollamento sui mezzi pubblici nelle ore di punta. Poi dopodiché era una valutazione da fare con il governo, ovviamente, perché il sistema scolastico ha le sue esigenze, era forse più una provocazione che una proposta, non è entrata nel pacchetto poi delle proposte discusse nell'ultima sessione con il governo, quindi era poco più che uno spunto di riflessione, direi. Uno spunto di riflessione, ma lei come la vede questa ipotesi? No, io non la vedo particolarmente bene, nel senso che è comunque arrendersi al fatto che questo paese alla fine prende sempre provvedimenti quando contro la movida, quando per lasciare a casa i ragazzi, che non sono strutturali. Strutturale sarebbe un piano per aumentare il trasporto pubblico locale in tutto il paese, ovvero investire denaro, formare autisti, comprare mezzi e magari utilizzare questo momento complesso anche per una transizione green del trasporto pubblico delle nostre città. Capisco che non sia una cosa che si fa in poche ore, ma non è una cosa che si può scartare. Invece fino ad oggi abbiamo sempre preso un po' le scorciatoie, diciamo così, all'ultimo momento, quindi non è una roba che vedo particolarmente bene. Toti, ma non c'è qualcosa sul fronte del trasporto pubblico, poi se vuole finisce, però non c'è qualcosa sul trasporto pubblico che potevate fare voi presidenti di regione? Penso per esempio ad attivare dei contratti con il trasporto privato, no? Che in questo momento, stanno lavorando pochissimo quelli, no? È stato assolutamente fatto, ma su alcune cose è possibile. Pensiamo al trasporto dedicato, ad esempio, degli scuolabus, soprattutto nei lunghi spostamenti, diciamo, dalla provincia alle città per i ragazzi più grandi che frequentano i licei, le scuole medie superiori. Difficile utilizzare mezzi del trasporto privato per il trasporto pubblico locale cittadino, hanno tempi di incarrozzamento dei passeggeri e hanno carte d'omologazione che non prevedono il trasporto in piedi, cioè sono mezzi totalmente diversi da quelli che si utilizzano per il trasporto pubblico. Occorre stanziare dei soldi e comprare dei mezzi, questo sì, occorre un fondo per il TPL, il trasporto pubblico locale, evidentemente aumentato in modo molto importante. Occorre procedure semplificate per l'acquisto di quei mezzi senza le gare, perché evidentemente una gara europea per l'acquisto di mezzi di trasporto dura molto spesso alcuni anni. Occorre autorizzazione ad assumere personale e formare personale. Tutte cose, siccome il trasporto pubblico locale è finanziato con fondi vincolati del governo, cioè fondi che partono dal governo centrale, l'unico che può fare debito in questo paese, vanno alle regioni e poi si trasferiscono alle aziende pubbliche di trasporto locale, che vanno previsti per legge. Tra l'altro con il rischio che poi magari fra un anno tutta questa gente possa non servirti più, a dire il vero, Toti, se tutto va bene, se troviamo il vaccino, se le cose si tranquillizzano, potrebbe anche essere problematico. Ma non c'è dubbio, infatti occorrerebbe pensare ad un piano per il trasporto pubblico locale che sia anche di ammodernamento dei nostri mezzi, che sia di riqualificazione del personale, che sia magari anche di turnover rispetto al personale delle aziende, nel senso che persone ci saranno piani di pensionamento che possono essere in qualche modo agevolati e cose di questo genere. È ovvio che un piano in sé di gigantesco aumento del trasporto pubblico locale fino a se stessa avrebbe sicuramente senso oggi, ma tempi di realizzazione forse più lunghi ancora del vaccino. È vero altrettanto che le aziende del trasporto pubblico locale, il nostro trasporto ferroviario e molto altro, se gli diamo una modernata prendendo l'occasione del Covid, non facciamo gran male. Sì, senza rischiare di trovarsi con tante piccole nuove all'Italia. Massimiliano, la provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Io parlo da una provincia e da una regione Lombardia che ha chiuso le scuole l'ultima settimana di febbraio. Okay? A chi lo dice? E qua stiamo continuando a ripetere il fatto che siano i giovani, i ragazzi, gli studenti, gli untori e quelli che diffondono il Covid-19. La letteratura scientifica dice che non è così, perché loro sono meno suscettibili al virus. Quindi, anziché parlare del fatto di ridurre di nuovo la scuola a qualche cosa che è assolutamente inutile e che crea disuguaglianze, ossia di farla fare online, cosa che non funziona, non siamo tutti così digitalizzati, ci sono delle aree del paese in cui c'è un gap tecnologico enorme. Quindi forse è meglio provvedere a strutturarsi meglio con i trasporti, garantire dei servizi, maggiore efficienza e non perdere tempo per 3 mesi facendoci andare tutti in spiaggia, compresi i ragazzi, che in quella circostanza non erano untori. Adesso che sono tornati a scuola sono degli untori. Così è. La cosa è piuttosto paradossale. Massimiliano, taglio questo suo intervento e me lo metto da parte. Patrizia da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Posso subito agganciarmi a quello che diceva il signore? Io faccio l'insegnante e dopo che esporrò le mie ragioni per la didattica parziale a distanza, volevo dire che i ragazzi, allora, a scuola lo portano da casa e poi lo portano a casa, c'è un circolo vizioso. I nostri alunni sono contagiati perché l'hanno preso dai loro genitori o viceversa hanno contagiato i loro nonni. Sì. Quindi non sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il signore di prima. Intanto io sarei per una didattica mista. Didattica per mista. Motivi. Sì. Una parte della classe in presenza e una parte a casa. L'insegnante si collega dall'aula, ovviamente a rotazione. Guardi Patrizia, le posso dire una cosa? In realtà molte scuole questa cosa, come forse lei saprà essendo un insegnante, già la stanno facendo. Toti, lei l'ha visto il DPCM oppure no? Perché pare che l'abbiano approvato nella notte, però qua qualche ascoltatore ci dice: avete il testo, l'avete visto? No, io non l'ho visto, non so se a lei è pervenuto, ai vostri uffici. Io ho visto un testo su cui abbiamo discusso fino intorno a 1 di notte con i colleghi governatori, abbiamo mandato una serie di osservazioni al governo per dare il nostro parere favorevole, dopodiché è scomparso nelle fauci di Palazzo Chigi. Penso che qualche osservazione, non lo so, magari l'avranno colta, qualche un'altra, come spesso accade, no, non ne ho. Ma la storia delle feste c'è, la storia delle feste c'è nell'ultima versione, quella che avevate in mano voi? Nella versione che abbiamo discusso noi c'è il calmiere alle feste a 30 persone, sì, c'era. A 30 persone. E abbiamo fatto anche alcune osservazioni, ovviamente, perché è chiaro che qualcuno che ha programmato il proprio matrimonio, mettiamo, per questo fine settimana, se non ci sono degli spazi, dei momenti, come si dice, di guarentigia, dove si lascia il tempo di adeguare le proprie vite alle nuove regole, si rischia di fare dei danni molto molto seri. Così come in realtà avevamo chiesto anche di valutare il luogo dove la festa si svolge, perché è abbastanza incongruente lasciare dei limiti, per esempio sullo sport, piuttosto elevati, 15% di capienza dei palazzetti dello sport fino a 10.000 persone di omologazione, e poi magari non fare celebrare una festa o un matrimonio in un locale da 2.000 posti a sedere con 100 persone. Insomma, c'è qualche cosa che non torna in tutto questo. C'è stato, secondo lei, in quest'ultimo periodo, Toti, abbiamo letto un po' di cronache, un po' qualche comportamento irresponsabile, anche per esempio penso ai gestori di soprattutto discoteche, bar, quelli che si sono convertiti, ne abbiamo letto le cronache stamattina soprattutto da Milano, che alla fine non si può ballare, non si può ballare, ma alla fine all'1:30 si chiude tutto, chiudete, spegnete i telefonini, si parte e si balla. Qualche comportamento irresponsabile nella vita normale di società c'è sempre, c'è chi viola i limiti di velocità scusate, in automobile, c'è chi si tuffa dalla scogliera dove è vietata la balneazione, insomma, pensare che la devianza alla norma non esista nella nostra società è qualcosa, diciamo, di un po' utopistico. Dopodiché io credo che la maggior parte degli italiani che vede in giro con la mascherina un po' attenti siano persone per bene che rispettano le regole. Il problema è sanzionare ovviamente e soprattutto controllare, ma anche su questo, ripeto, occorre ahimè un piano di investimenti importante. Controllare, io ho fatto numerosi comitati di ordine e sicurezza nella prefettura del mio capoluogo Genova per i controlli, gli agenti poi sono sempre quelli e quindi la coperta è un po' corta, e se li utilizziamo per una cosa non li utilizziamo per l'altra. Insomma, credo che occorra una grande campagna di controlli e consapevolezza. La norma, se non ha un controllo e non ha una sanzione, molto spesso resta un'invocazione, un suggerimento, ma poco di più. Toti, ci sono ancora 14 positivi nel Genoa, secondo lei il campionato va sospeso, va interrotto? Ah, questo bisognerebbe girare, diciamo, la domanda al ministro dello sport, alla federazione calcio, alle società che hanno trovato un protocollo, se pensano di poter andare avanti. Il calcio, vede, si farebbe presto a risponderle: il calcio è l'ultimo dei nostri problemi. Che è la classica risposta, è la classica risposta, il calcio è l'ultimo dei nostri problemi. So che non me la darà. Come è un po' moralistico sempre andare a punire i famosi ragazzi della Movida, senza però calcolare che dietro ai ragazzi della Movida da un lato e anche ai ragazzi che inseguono una palla in un campo la domenica, oggi anche il sabato e il lunedì nei posticipi e negli anticipi, gira un mondo di persone che non sono Cristiano Ronaldo a 8 milioni di euro all'anno più i benefits, ma gira un mondo di persone che ci lavorano e vale molti miliardi di euro e vale molte migliaia di posti di lavoro, l'una e l'altra cosa. Però con il Genoa così in parte è falsato, e almeno nella parte non sappiamo. Non c'è dubbio che non sarà un campionato che resterà alla storia per diciamo appassionanti situazioni. È un campionato che si gioca per dare comunque uno sfogo ai tifosi che hanno diritto in qualche modo di passare anche un sabato sera o una domenica guardando la propria squadra in allegria, per far giocare i giocatori che si trascinano dietro un mondo che, vado a spanne, vale almeno 2 miliardi e qualche cosa di euro di PIL diretto. Grazie Giovanni Toti, presidente della Liguria, per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, buon lavoro. Adesso apriamo una finestra sull'estero, perché raccontiamo spesso quasi sempre quello che sta succedendo in Italia, ma lasciando a volte un po' da parte quello che succede per esempio in Gran Bretagna. Gran Bretagna, dove ieri il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovo sistema di lockdown progressivi, così possiamo chiamarli, in tre fasi. Si parte con misure più morbide fino ad arrivare alle misure più dure, e insieme ha fatto di fatto partire il coprifuoco a Liverpool. Saluto Giuseppe Chito Fusai, che è presidente della Italian Medical Society of Great Britain, che è un'associazione che raccoglie appunto i medici italiani che operano e lavorano in Gran Bretagna. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci dà la misura della situazione là? La situazione qui in Inghilterra credo sia abbastanza analoga a quello che si vede in altri paesi europei. In particolare ieri sono stati diagnosticati 14.000 nuovi casi da Covid, e di questi circa 500 hanno richiesto un ricovero in ospedale. Parlo soltanto dell'Inghilterra, non della Gran Bretagna in toto. Questo a fronte di una cinquantina di decessi occorsi ieri in Inghilterra. Sì. Ora, ci sono delle zone in Inghilterra che sono zone rosse, come la zona di Liverpool che lei ha citato, e in queste zone qui, per cercare di proteggere o di evitare ulteriore diffusione della malattia, il primo ministro e il governo britannico ieri hanno creato tre livelli di misure contenitive. Il primo è quello che sta succedendo adesso in Inghilterra, sono le stesse, non è diverso ed è medium risk. E poi ci sono due categorie, ad alto e a rischio vero alto. Liverpool cade in questa zona qua, in questo gruppo, dove hanno chiuso pubs e hospitality, hanno chiuso da oggi palestre e luoghi di incontro e hanno impedito incontri sociali per quelle che chiamano le bubbles, quindi sociali di gruppi familiari diversi, non soltanto all'interno di abitazioni ma anche al di fuori. Quindi sono più o meno le stesse misure restrittive del lockdown che c'erano quando il lockdown è stato imposto qualche mese fa. Mi sembra che non sia esclusa l'ipotesi che si arrivi a un lockdown del paese, o sì? Per il momento siamo in uno stato di allerta e credo che siamo ancora abbastanza distanti. Sentivo proprio stamattina l'impatto anche sull'economia e il danno collaterale, non soltanto all'economia ma anche al sistema sanitario. Circa 100.000 casi, se non di più, sono i pazienti che sono in attesa da più di un anno di un intervento chirurgico. Non parlo necessariamente di pazienti con tumore o in attesa di trapianto, ma anche questi hanno sofferto un ritardo nel loro trattamento. Quindi la preoccupazione del governo britannico, come credo anche quello italiano, è di ritardare ulteriormente e di mettere in attesa interventi chirurgici che comunque sia non possono aspettare più di tanto. Quindi le misure contenitive, il lockdown, credo almeno e spero che non vengano reimposte troppo in fretta. Sì, ci parlava di aree di primo livello e di secondo livello. Nelle aree di secondo livello, tanto per dare un'idea, è vietato ogni scambio tra persone di famiglie diverse, cioè i nuclei familiari diversi non si possono proprio incontrare, non possono incontrarsi in sostanza, no? Questo è più... Esattamente, questo è un po' paradossale, perché comunque sia rimane l'incontro ancora in ambienti di lavoro per sì. tutti quelli che hanno ancora l'opportunità, per fortuna, di andare a lavorare. Quindi rimane. E le scuole sono aperte, quindi ci si incrocia anche là. Le scuole sono aperte, quindi ci si incrocia anche là. È l'ultima delle cose che il governo voglia chiudere. Quindi le scuole rimangono aperte anche nelle zone ad alto rischio, come a Liverpool. Torniamo un po' sull'Italia. Vincenzo da Palermo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ascoltavo per quanto riguardava il potenziamento dei servizi pubblici per dimezzare un po' l'afflusso. Ma dico, ma perché non si possa pensare a una scuola a mattina e pomeriggio? Alla fine la classe dei professori è stata garantita di tutto, non è stata messa in cassa integrazione. Si chiede un sacrificio a della gente che è stata garantita al 100%. Che si scomodano come una qualsiasi azienda che vede come razionalizzare il proprio lavoro. Punto. E si dimezzano sia gli alunni. Lei dice facciano la mattina e il pomeriggio. Vincenzo, la ringrazio. Grazie per il suo intervento. Fabrizio da Genova, buongiorno. Buongiorno, allora io cercherò di essere breve e conciso. Dunque, ho sentito un intervento molto interessante di una persona che ha dichiarato che questa cosa dell'online, quindi la scuola sì, diciamo didattica da casa, a distanza, sì. crea delle differenze sociali sì. ed è assolutamente corretto. È stata fatta la scelta di fare le regionali d'estate, quindi in un periodo in cui il Covid ha rallentato ampiamente, quindi eravamo quasi convinti di avercela fatta, e naturalmente le regionali hanno permesso di dare spazio alle, cioè come dire, la campagna elettorale ha dato spazio alle varie categorie, quindi sì. sono riaperte le spiagge, sì. si è riaperto tutto, perché altrimenti come dire abbiamo bisogno di voti, no? Quindi è necessario fare, ma questo l'hanno fatto tutti, no? Lei dice l'allentamento del lockdown è stato fatto anche per quel motivo, anche perché ma servivano non è voti così, dice però lei. Ne hanno approfittato, come dire, cioè comunque è stato un modo per riuscire a ottenere più consenso, no? Quindi adesso dovrebbero pagare di nuovo i ragazzi, quindi che non possono fare neanche attività all'aria aperta. Ora mia figlia gioca in una squadra di pallavolo, loro probabilmente riescono a continuare, però è terrificante sta cosa della mancanza di contatto per questi ragazzi, no? Sì, sì. Quindi e soprattutto il fatto che molti non potranno usufruire di queste tecnologie. Fabrizio, Fabrizio ha perfettamente ragione. Guardi, è un po' sulla linea di quello che ci diceva l'ascoltatore prima. Giuseppe Chito Fusai, la sua impressione è che ci siano stati dei difetti da parte del governo britannico nella gestione dell'epidemia, della pandemia, oppure no? È difficile a dirsi, è un evento senza precedenti. Quindi non credo che nessun governo abbia raggiunto la perfezione. Sicuramente il governo britannico è stato criticato parecchio per aver ritardato le misure di contenimento, piuttosto che il contrario, e quindi aver lasciato aperte le porte in momenti in cui potevano chiuderle e ridurre il numero di infezioni. In realtà quello che hanno tentato di fare è di massimizzare o di minimizzare il danno all'economia in generale, cosa che poi non è successo, quindi non lo vedo estremamente criticabile in questo momento l'atteggiamento del governo britannico. Quello di cui alcuni parlano è di cercare di ritornare non ad una herd immunity, comunque ad un'immunità di gregge, che ormai è diventata obsoleta come ipotesi, ma a cercare di proteggere i vulnerabili, dando la possibilità a quelli che non sono vulnerabili di ritornare sul posto di lavoro, quindi a mantenere l'economia. Questa è una delle ipotesi, però al momento il governo britannico è stato estremamente chiaro e deciso su quelle che sono le misure di contenimento. Grazie Giuseppe Chito Fusai per essere stato con noi. Ringrazio appunto Giuseppe Chito Fusai, presidente della Italian Medical Society of Great Britain. Chiedo scusa a Cristian da Monza e a tutti gli altri, era il primo in lista che non riesco a far intervenire. Un'ascoltatrice che scrive dall'Olanda: ieri 6.800 nuovi casi. Stasera, su 17 milioni di abitanti, stasera c'è la conferenza stampa di Mark Rutte. Ci mandi anche un messaggio vocale se vuole domani mattina, che così ci racconta un po' come vanno le cose. Tutti voi che ci ascoltate dall'estero, i vostri racconti ci interessano. Ci risentiamo domani alle 6.30. Ciao. Ora! È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.